America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Uno scampanellio, devo dire non molto buono, quello di ieri. La borsa ha perso 250 punti, l'1,96% per l'indice Dow Jones, siamo a quota 12.570, brutte notizie. Devo dire che l'atmosfera, l'umore è piuttosto negativo per quel che sta capitando nell'economia globale. Lo avevo percepito già durante il vertice del G20, ai margini di questo vertice avevo chiacchierato con vari funzionari di vari paesi. Bene, tutti erano negativi sull'economia. Cosa è successo? Cina, ieri indice manifatturiero dal 48,4 è caduto al 48,1 in giugno, è l'ottava caduta consecutiva al di sotto di quota 50, che diciamo rappresenta la soglia di positività. Il PIL cinese lo stanno rivedendo, forse crescerà addirittura al di sotto dell'8%, cresceva a ritmi del 9,1%. In America ieri abbiamo avuto una caduta dell'1,5% della vendita di case, il tasso di disoccupazione non funziona, continua a peggiorare. L'indice manifatturiero della Fed di Filadelfia è a 16,6 punti, il livello più basso dall'agosto del 2011, per non parlare poi delle notizie europee in Spagna sulle banche e le difficoltà di andare a collocare il debito spagnolo. Moody's, che ha fatto un declassamento di 15 banche, le 15 banche più importanti del mondo, da Bank of America, Morgan Stanley, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Goldman Sachs, non solo le europee. Dunque Goldman Sachs stessa che ha mandato ieri una nota ai suoi clienti dicendo forse è meglio vendere. Ecco, questa è l'atmosfera. L'atmosfera è che il contagio sia ormai globale, che le economie che facevano da traino, cinese, indiana, americana, cominciano anche loro a mostrare il fiato. Ma abbiamo parlato di economia tutta la settimana, c'è un vertice in corso a Roma, fra poco avremo i risultati di questo vertice, un altro vertice importante in Europa la settimana prossima, dunque non ci sono per ora delle risposte a questa situazione, di certo le risposte non sono venute dal G20 e dunque cambiamo pagina, vorrei tornare a occuparmi di cultura, aprire la nostra pagina culturale del venerdì a partire da questa dichiarazione di un grande uomo di cultura americano. I didn't really believe in the idea of writing classes. Mm-hmm. I believed in the idea of writing practice, so I figured the thing I needed to know was whether I could actually sit in the chair and write. Philip Gurevich, uno scrittore americano, descrive questo rapporto un po' ambiguo che lui ha avuto nel momento in cui cercava di formarsi come scrittore e della insoddisfazione che aveva l'università dalle classi, tra virgolette, che insegnavano letteratura. E lui sostiene che a lui non interessa molto la teoria, interessa più la pratica, che si dà magari troppo peso alla psicologia e poco peso, per esempio, alla lettura di certe fiction, a un certo tipo di letteratura, e quindi a un certo punto lui ha mollato e ha cercato di formarsi anche per conto suo. Philip Gurevich è un personaggio importante della nomenclatura letteraria newyorkese, è stato colui che ha rilanciato, dopo la morte di George Plimpton e dopo un periodo di decadenza, il Paris Review, che è stato uno dei grandi agglomerati per la letteratura americana. Hanno scritto alcuni dei più grandi autori di questo paese a partire dagli anni 50, quando appunto la rivista nacque a Parigi. Perché vi parlo di Gurevich? Perché sarà a Capri, vi parlo spesso di italiani che vengono in America e di attività culturali che facciamo qui, mi sembra importante anche parlare delle attività culturali che hanno a che fare con l'America e magari con altri paesi, ma con l'America nel nostro paese. E Gurevich parteciperà al festival letterario a Capri, conversazione scrittori a confronto, organizzato da Antonio Monda e Davide Azzolini, e io con me ai microfoni America 24 Antonio Monda, che ci racconta un pochettino che cosa capiterà. Antonio, dai festival cinematografici a quelli letterari, ma insomma sei eclettico. In realtà cerco di fare la stessa cosa con due linguaggi diversi, cerco di raccontare alcune idee che ho a cuore. Il festival è arrivato alla 7ª edizione. Lo abbiamo fondato con Davide Azzolini nel 2006, sono 4 anni che lo abbiamo portato anche a New York, alla Morgan Library, stiamo cercando di portarlo anche in altre grandi città e capitali internazionali. Quest'anno abbiamo ben 12 ospiti, 6 internazionali e 6 italiani, che dibatteranno su un tema molto forte e spigoloso, che è la correttezza politica. Ho chiesto a ognuno degli autori di scrivere un saggio inedito, darmi un saggio inedito che leggeranno in pubblico. 9 si sono schierati fortemente contro la correttezza politica, 2 l'hanno difesa e 1 è rimasto neutrale. Chi sono gli autori americani che sono allora, tuoi ospiti? Dicevo, a parte abbiamo 6 Philip. Ospiti internazionali. Gli americani sono Philip Gurevich, che hai appena citato, Larissa McFarquhar, Stephen Merrill Block, poi è americana di adozione ma di nascita franco-iraniana Lila Azam Zanganema, e poi 2 autori che vivono negli Stati Uniti ma non sono statunitensi: Wole Soyinka, premio Nobel per la letteratura, che è nigeriano, e Jamaica Kincaid, che vive anche lei negli Stati Uniti ma è dei Caraibi. Senti, vedo fra i vari autori che partecipano appunto un bello schieramento, ci sono anche degli autori italiani. Chi sono i 2 che hanno difeso la correttezza politica? Una è proprio Larissa McFarquhar. Ah, bene bene, così la prossima volta che la vedo potrò fare una piccola conversazione anche con lei. E l'altro è un italiano, che è un collega, un amico, che è Federico Campini. Ecco, avrei detto, infatti Federico... Devo dire, tutti con grandi motivazioni assolutamente non solo legittime ma molto precise. Quest'anno abbiamo invitato 6 italiani perché ogni serata è un faccia a faccia, è un dibattito. 3 sono scrittori puri, cioè romanzieri: Gaetano Cappelli, Diego De Silva e Leonardo Colombati, e 3 sono giornalisti di primissimo ordine, appunto Federico Campini, Paolo Mieli e Pigi Pierluigi Battista. Quali sono le tesi che ti hanno colpito di più nel dire, ma insomma, il troppo è troppo, di questi 9 che sono contro la political correctness? Mi ha colpito la forza, l'intensità e ovviamente la qualità e l'intelligenza di alcuni pezzi, proprio quello di Philip Gurevich, che ha sparato in maniera proprio dura contro le degenerazioni del politicamente corretto, perché non è che si attacca in sé la cultura, quella cultura, ma le degenerazioni. E anche alcuni autori italiani come Battista e Colombati sostengono che si arriva ad un'ipocrisia di fondo. Io insieme ad altri mi sono più focalizzato sui rischi di tipo artistico. Ti faccio un esempio a cui non si pensa molto: Hannibal Lecter. Ti ricordi Hannibal? Certo, Cannibal? Certo. Hannibal è un cannibale, è uno che stupra, uccide, tortura e mangia le persone, quindi un mostro. Lecter, che cognome è? Prova a immaginare per un attimo se quel personaggio avesse avuto il cognome di Esposito, Abramovitz, Al-Fayed, Chang, oppure se avesse avuto la pelle nera. Sarebbe successo un inferno. Beh sì, è vero, però è anche vero che purtroppo viviamo in una situazione in cui certi luoghi comuni purtroppo restano. Dunque, devo dire che in fondo... la prudenza o la delicatezza di non soffiare sul fuoco estendendo certi luoghi comuni, non so se equivalga a una sopraffazione dell'istinto artistico di chi poi racconta una storia, ma evidentemente il tema è straordinariamente attuale. E dunque, come vedi, ci troviamo qui a parlare del pro e del contro, e l'unica cosa, devo dire, che mi lascia così con un po' di amaro in bocca è che non mi hai invitato a Capri a partecipare a questa cosa. Sarà per il prossimo anno. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno: Katy Perry, 27 anni, pensate, ha già venduto 3,7 milioni di dischi, ma non le basta, ha un nuovo progetto nel cassetto, vuole lanciare la sua etichetta discografica, l'ho annunciato ieri. Dunque a Katy Perry dedichiamo la canzone di venerdì, Last Friday Night. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Pink flamingos in the pool. I smell like a mini bar. DJ's passed out in the yard. Bobby's on the barbecue. This a hickey or a bruise. Pictures of last night ended up online. I'm screwed. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!